Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Iniziamo insieme una nuova giornata e diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite della giornata, il professor Francesco Benazzo. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Ortopedico alla Poliambulanza di Brescia e ordinario all'Università di Pavia. Professor Benazzo, estate, tempo di raccomandazione. Anche gli ortopedici non vogliono perdersi questa occasione. Certo, ma parliamo di attività motoria, perché l'ortopedico si occupa di curare le affezioni dell'apparato muscolo-scheletrico ed estate si ha la tendenza a usare di più l'apparato muscolo-scheletrico con attività sportive varie. Se vogliamo fare riferimento anche al periodo di mobilizzazione che abbiamo avuto, possiamo dire che c'è stato e c'è, e lo vediamo nei nostri pronto soccorsi, un rebound, cioè un aumento delle lesioni del trauma da sport, perché dopo l'immobilizzazione tantissimi si sono dedicati a un'attività sportiva più intensa. Però dobbiamo fare una differenziazione tra quelli che sono gli sportivi amatoriali, quelli che sono gli sportivi che fanno attività intensa pur essendo amatoriali, e gli sportivi professionisti, perché c'è una profonda differenza tra questi. Da che cosa vogliamo partire? Che lei, come presidente del CORSA, che è il Consorzio Universitario Pavese per la Riabilitazione Sportiva degli Atleti, si occupa di atleti professionisti. Ma secondo me gli atleti professionisti non hanno bisogno di noi, nel senso di obiettivo salute e risveglio. Già sono controllati, osservati, monitorati, eccetera. Io vorrei occuparmi con lei di chi ha ripreso, perché tutti noi abbiamo dovuto in parte interrompere, no, durante l'emergenza Covid l'attività sportiva, quindi per chi era uno sportivo amatoriale adesso finalmente può darci dentro, come si dice, ingranare la marcia, per chi invece in previsione dell'estate, con le giornate che si allungano, con la prova costume, con il bombardamento che arriva da voi medici che continuate a dirci fate attività fisica, serve non solo dimagrire ma mantenere buono e sano il cervello e il cuore, dice sarà la volta giusta e buona. Professore. Quella che l'attività sportiva che è più comune, perché che è più facilmente praticabile da tutti al jogging, cioè la corsa su strada, che nasconde alcuni rischi. Innanzitutto bisogna tener conto del terreno, perché se andiamo a correre sulle strade asfaltate, una delle prime regole è di correre sul lato sinistro della strada, in modo tale che le macchine che ci vengono di fronte ci vedano, perché altrimenti se siamo sull'altra strada non ci accorgiamo neanche noi spesso delle macchine che ci vengono da dietro. Le strade sono fatte d'osso d'asino, quindi hanno una curvatura, questo per favorire, anche se impercettibile, ma per favorire lo scorro dell'acqua. Il correre sempre dallo stesso lato vuol dire che il piede destro appoggia in pronazione e il piede sinistro appoggia in supinazione. Questo può provocare uno scompenso a livello del piede, della caviglia, della tibia tarsica, ma anche del tendine d'Achille e addirittura del tendine rotuleo. Per cui è buona norma comunque correre, alternare il senso di corsa e alternare le superfici di appoggio. Quindi se si sceglie di correre su strade asfaltate non lo si faccia tutti i giorni, ma si corra un giorno sulla strada asfaltata e un giorno su strada sterrata. Le strade sterrate comportano altri rischi perché spesso sono irregolari, quindi le distorsioni sono in agguato. Le distorsioni sono in agguato perché dopo un periodo di mobilizzazione le nostre articolazioni non hanno più quella sensibilità di reazione all'appoggio errato del piede. Quindi, sono un po' addormentate come? Sono vero? Un po' addormentate, esattamente. Quindi l'allenamento non è solo un allenamento cardiovascolare o di respirazione, è un allenamento di tutto il corpo che comprende il rafforzamento muscolare progressivo, cioè la capacità dei muscoli di sviluppare quella forza che ci serve per fare attività sportiva, ma anche l'adattamento delle articolazioni al maggior carico che diamo con la corsa. Tornando al discorso di prima delle strade che hanno questa superficie curva, bisogna stare molto attenti al tendine d'Achille, perché il tendine d'Achille soffre molto quando non ha un'azione in senso su un terreno d'appoggio piano, perché ogni volta che appoggiamo il piede quando si corre, il tendine d'Achille ha quello che si chiama un colpo di frusta, cioè va dall'avanti verso l'indietro, e ha più prona il piede, cioè più il piede appoggia sulla parte interna e quindi il piede destro nella la parte sinistra della strada, ha anche un fenomeno di torsione. Il fenomeno di torsione provoca una diminuzione dell'afflusso di sangue al tendine d'Achille stesso e anche al tendine rotuleo, che sta più in alto, e questo può comportare una progressiva ma costante degenerazione del tendine. Attenzione per chi corre: il tendine d'Achille che degenera può anche non dare dolore, quindi bisogna toccarsi il tendine d'Achille, soprattutto se si va a correre molto spesso in questa stagione estiva, sì, per vedere che non si ingrossino. Se è grosso vuol dire che soffre. Che soffre, e spesso soffre e si ingrossa, non diffusamente lungo tutto il decorso del tendine d'Achille, ma in un punto ben preciso, come se ci fosse un nodulo un pochino più sporgente. Okay. Quello può anche essere dolente perché si infiamma un po' la guaina, ma può anche non essere dolente. E quindi per i joggers, attenzione, guardarsi e controllare il corpo. Anche per chi non corre, prof, questo io non corro, cammino. Vero? Lo sto tenendo d'occhio, sto palpando il mio tendinone d'Achille, mi sembra in buona salute, non mi fa male. Comunque, professore, abbiamo parlato di chi corre, andiamo anche a chi invece sale in sella, i ciclisti. La bicicletta è uno sport meraviglioso, innanzitutto si eliminano i microtraumi da impatto a cui facevo riferimento prima. Però introduce la bicicletta un altro rischio, quello dei macro traumi da caduta. Sì. E quindi ecco. E caschetto, quindi bisogna, sempre. Caschetto sempre. Il caschetto anche nella bicicletta, non da corsa, non da mountain bike, non da fuoristrada, ma il caschetto effettivamente andrebbe sempre, sempre, sempre indossato, perché il trauma cranico è un'evenienza che va molto al di là di qualsiasi gravità di una frattura. Ecco. Quindi assolutamente lo raccomando. Professor Benazzo, spesso la bici. Andiamo in bici nel weekend e allora si percorrono magari anche tanti chilometri e non siamo allenati, e quindi il lunedì ho fatto una gita in bici 20 chilometri, non mi alzo più. Che cosa si può fare? Anche qua gradualità? Beh, la gradualità, guardi, per entrare nei particolari, chi si sale in bicicletta su un sellino duro di una bici da corsa, non spaventarsi per il dolore in zona perineale, perché può fare veramente male. I ciclisti professionisti hanno una cotenna di cute e di sottocute molto importante, quindi permette di stare ore e ore e ore in bicicletta. Bisogna fare un allenamento progressivo, non è assolutamente pericoloso avere dolori in quella regione, però chi fa un giro di 20 km in bicicletta e l'ha fatto per la prima volta il giorno dopo fa fatica a sedersi, ma non è preoccupante. Ecco, resistete, stringete i denti e resistete. Secondo punto, la posizione in sella. Per chi ha mal di schiena e non si mette bene in sella, che ci sono delle regole ben precise per la lunghezza degli archi sulla sella, questo può causare mal di schiena, e quindi allora la bicicletta diventa una fonte di problemi e non una risoluzione della inattività. E quindi farci mettere bene in sella, dove dai meccanici ciclisti, che in genere hanno la capacità di calcolare bene la lunghezza dell'arto, la dimensione della ruota ovviamente, la lunghezza dell'arto e l'altezza della sella. Poi la protezione, l'abbiamo già detta, e imparare a sganciare bene i pedali. Bisogna fare allenamento a sganciare bene i pedali, perché la causa più frequente di fratture nei ciclisti, che sono quelle del collo femore e quelle della clavicola, non sono le clamorose cadute che conosciamo, ma è la improvvisa difficoltà, un semaforo rosso, di sganciare il pedale, di appoggiare il piede per terra. E quindi si cade di lato e si appoggia alla spalla, ci si rompe la clavicola, e si appoggia il trocantere, cioè la parte esterna del femore, e ci si può rompere il collo del femore. E quindi questo è, attenzione, quindi sganciare il piede. Sganciatemi, mi raccomando, il piede. Andiamo al parco, professor Benazzo, ultime due minuti di chiacchierata. Ci sono tante persone che si allenano nei parchi cittadini. Certo, un'ottima cosa. Ci sono anche i percorsi salute, percorsi vita salute in tanti parchi. Io raccomando, non voglio far arrabbiare nessuna amministrazione provinciale, comunale, regionale, però spesso questi attrezzi che sono nei parchi sono non controllati, abbandonati e hanno passato un ulteriore inverno, quindi prima di appendersi, prima di fare dei percorsi salute con degli attrezzi, controllare che l'attrezzo sia in ordine. E quindi ha ragione. Questo assolutamente. E poi fare quello che il proprio corpo permette di fare. I guerrieri della domenica, i weekend warriors che si vogliono sfogare il sabato e la domenica, sono le persone, sono gli sportivi materiali che più si fanno male. E una delle patologie più frequenti che noi vediamo sono queste persone che esagerano il sabato e la domenica, hanno delle micro lesioni muscolari da sforzo, che è una malattia ben definita, una forma patologica ben definita, per cui lunedì e il martedì non riescono ad alzarsi dalla sedia, non riescono a camminare e si spaventano. Non c'è niente da spaventarsi. C'è da pensare. Ma c'è da pensare che l'attività eccessiva, incontrollata, anche se ben sopportata da un organismo giovane perché le articolazioni glielo permettono, un danno muscolare lo può fare. E per cui la distribuzione dei carichi, quando dico distribuzione dei carichi, è una progressione nella acquisizione nella quantità di lavoro che si vuol fare, la distribuzione dei carichi diventa fondamentale e importantissima. Professore, grazie, faremo molta attenzione, grazie per essere stato con noi. Ringrazio Filippo Aureggi, che da questa chiacchierata mi guardava come per dire: vedi che ho ragione io, piano piano con l'attività fisica. E ringrazio sempre Laura Vanossi, che è in assistenza e anche in redazione. Vi do appuntamento come sempre a mezzogiorno, dopo il GR delle 12, per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Professor Benazzo, grazie. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.